11:10, buongiorno a tutti e tutte coloro che si sono appena sintonizzati sui 105.250, le libere frequenze di Radio Blackout. Siete all'ascolto di Parole Ribelli, un saluto a tutti e tutte da Eddie. E un saluto anche da Carla. Allora, andiamo subito a presentare questa puntata prima di andare avanti con un po' di musica. Funesta mattinata a Torino, l'Info ha fatto già la dovuta, appunto, la dovuta panoramica sullo sgombero in corso in San Paolo, in culo alla madama come sempre. E quindi, appunto, e poi ci spostiamo un po' a Napoli. Abbiamo visto negli scorsi giorni la vile aggressione fascista ai danni di un gruppo di studenti del liceo, ma diciamo né loro né coloro che sono andati a portare solidarietà si sono lasciati intimidire, quindi, ma anzi ne hanno fatto diciamo una questione più ampia dei singoli che sono stati toccati e hanno avuto una sorprendente risposta di solidarietà. E allora andremo a sentire i compagni da Napoli per farci raccontare un po' cosa è successo. Poi andremo, diciamo, a andiamo a parlare di un po' di questioni territoriali, nel senso che avrete visto che negli ultimi giorni sono state, nelle ultime settimane sono state abbastanza frequenti le proteste di studenti che contestavano le condizioni, diciamo, che denunciavano le condizioni in cui versano gli istituti pubblici, gli istituti scolastici. E allora quella dell'edilizia scolastica è diciamo una falla molto grande nel sistema italiano, soprattutto la non sicurezza in cui i nostri, diciamo, con cui ragazzi e ragazze vanno a scuola. E allora gli studenti del Giulio Cesare, nel momento in cui si sono ritrovati cacche di topo e riscaldamenti intermittenti, si sono organizzati e hanno deciso di dire no. E allora hanno convocato questo corteo per questo giovedì, un esempio molto interessante di come dei ragazzi si sono presi la responsabilità e si sono presi a cuore la situazione della propria scuola, ma soprattutto la propria situazione, perché a scuola è dove passano la maggior parte del tempo. E poi andremo a parlare di accademia e prese di posizione, nel senso che abbiamo visto, è recentissima la notizia della di questi giorni, un appello che più di centinaia di accademici italiani hanno firmato per boicottare Israele. Allora abbiamo visto quale la reazione è stata abbastanza di condanna da parte di tutta il resto del mondo intellettuale. C'è chi si è permesso di liquidare centinaia di accademici dicendo sì, ma sono dei deficienti. Bene, sappiamo perfettamente che così non è, ma soprattutto non è l'unico esempio di questo genere degli ultimi giorni, nel senso che abbiamo visto prendere parola a ricercatori e non solo, spesso negli ultimi tempi in particolare, contro un orientalismo, quello che anche in varie lettere aperte è stato definito dilagante nel trattare quelli che sono i temi che ad oggi sono sulla bocca di tutti, per esempio i conflitti medio orientali. Allora andremo a sentire Gabriele Proglio, ricercatore dell'Istituto di Studi Europei, per farci raccontare un po' come va questa campagna. E adesso un po' di musica e poi torniamo subito con la puntata. Yo yo, I'm trying to play leaving. Right. See you at the airport. From the wise of MCs, these cats is paying more than half a pound. I got my bag and snatch it down. I got the skate, but we can probably run them back in town. Scenarios like this is tear jerkers for the modern MC, i.e. the blue collar worker, cause this thing called on assignment to unearth a diamond. When you start climbing and them eyes start shining, you be struggling and striving, and they give you prime time and maintain and keep silent. Make note and observation, it's confrontation. This is the daily operation, my concentration. Stay focused on my recitation, about to reach my destination with no pause or hesitation. Baby, make the preparation, cause this ain't no recreation, this is pro ball. And we letting you know, y'all, at the show, y'all, doing this for dough, y'all. Get the phone call, and I'm ready to blow, y'all. About to go, y'all. Been a pleasure to know, y'all. And I'm letting you know. Drop these heavy ass bags up off my backbone. Around the world with a catalog of rap songs. My baby girl is walking, been away for that long. But no, you haven't, well, at least it's how it seemed to me. My hometown is like a whole different scenery. The old timers on the stoop leaning leisurely. The new jacks up in the park smoking greenery. Easily taken for granted when you up in it, but it's sweet sinning. When you been down for a minute, move around city limits, break them down with the vintage. The N.O. Vintage, classical B-boy image, collect the winners. Cause that's the reason that we came here. This thing is not a game here. The fortune, not the fame here. From New York to the Cadillac, Cali and the Cadillac, Chicago, no, we innovate. Infiltrate Virginia State, D.C. make me stimulate. Philly, no, we penetrate. Georgia make us generate. Let's celebrate to get the pace. They celebrate them ideas in foreign lands. Even your mans in Japan know who I am. And our son, make everybody out in the funds. Say Ichiban, make God man know where you're getting from. Phenomenon, excuse me, that's a phone call. It's a show, y'all. Trying to get this dough, y'all. About to blow, y'all. Been a pleasure to know, y'all. And I'm letting you know that memories don't live like people do. They always remember you. Whether things are good or bad, it's just the memory. Baby, don't forget me. I'm a traveling man, moving through places, space and time. I got a lot of things I got to do, but inshallah I'm coming back to you. Baby boo, I'm a traveling man, moving through places, space and time. I got a lot of things I got to do, but God willing I'm coming back to you. Back to you, I'm e 19, allora andiamo avanti con la puntata di Parole Ribelli per chi si fosse appena messo in ascolto. E allora, ok, dovremmo essere in contatto con questa compagna di Napoli, Rosa, come dicevamo in apertura di puntata. Andiamo subito a chiederle se ci sente. Rosa, ci senti? Sì, ciao, buongiorno. Ok, perfetto. E allora io ho un minimo, diciamo, introdotto quelli che sono i fatti dell'altro giorno, però ti lascio subito la parola. Non saranno nuovi gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Blackout alla notizia, perché questa radio segue l'antifascismo da sempre, però sicuramente, ecco, se ci fai un breve piccolissimo riepilogo, diciamo, cronologico di ciò che è successo, e poi entriamo un po' più nel dettaglio sulla risposta. Sì, allora la cosa è stata questa. Vabbè, come penso avete, venerdì mattina è iniziato venerdì mattina, quando davanti al liceo Vittorini, che si trova nel quartiere del Rione Alto, c'è stato uno scontro, praticamente, più che altro un'aggressione da parte di alcuni esponenti anche abbastanza noti, ragazzi della scuola di blocco studentesco a Catapound, che non sono appartenenti alla scuola, sono più grandi, e sono andati davanti alla scuola con il pretesto di un volantinaggio. In realtà, quando un paio di ragazzi invece del collettivo studentesco della scuola gli ha chiesto appunto di andarsene, che non era il caso che facessero quel tipo di cosa là, perché la scuola è antifascista, il collettivo è antifascista, e la risposta è stata praticamente prendere a cazzotti un ragazzo che ha 16 anni del collettivo, facendolo praticamente svenire sul colpo, anche perché poi erano ovviamente, diciamo, in più e quindi tra l'altro minacciando lui e altri due ragazzi del collettivo che erano là, ovviamente di una serie di aggressioni che poi sarebbero arrivate all'uscita nel momento in cui loro avessero in qualche maniera reagito, magari no, sparso la notizia a scuola, così. I ragazzi per fortuna non si sono fatti intimorire e hanno ovviamente iniziato a far girare la cosa nelle aule, insomma, tra i compagni di classe. È arrivata la solidarietà anche abbastanza forte, tant'è vero che poi all'uscita della scuola immediatamente, diciamo, hanno esposto questo striscione che era appunto Vittorini antifascista e così. Che è successo? Che all'uscita della scuola una serie di ragazzi di altri collettivi, di altre scuole, di compagni in generale, sono andati a vedere appunto come, pure a sincerarsi un attimino del ragazzo, come stava dopo l'aggressione della mattina, a portargli solidarietà, insomma, a capire com'era andata la cosa, a vedere se potevano in qualche maniera supportare proprio praticamente. Quando è successo questo fuori la scuola, poi ovviamente i ragazzi si sono spostati e nel tornare a casa appunto hanno neanche, diciamo, 5 minuti a piedi dalla scuola, prima di prendere la metropolitana, poi ognuno, diciamo, tornava dove doveva tornare, hanno trovato questi tre personaggi abbastanza, diciamo, che aspettavano abbastanza evidentemente, nel senso che erano, come poi non so se avete visto le immagini, però insomma erano armati di mazze, tanto firmate, di martelli, avevano un casco, erano appunto, qualcuno a volto coperto, insomma il più classico, diciamo, degli agguati, nel senso che mentre loro appunto si avvicinavano alla metropolitana, questi qui hanno iniziato a tirare l'impossibile, a tirare bottiglie. Tieni conto che era diciamo un orario particolarmente poco opportuno per una cosa del genere, nel senso che ovviamente spesso intorno alle 2 del pomeriggio, quindi orario di uscita di scuole, orario di uscita di lavoro, c'era tanta gente per strada, insomma, anche tanta gente che tra l'altro è rimasta coinvolta nell'aggressione. Per dire, ci sono una serie di ragazzi che poi noi ci hanno contattato, ci hanno fatto sapere che si sono ritrovati le bottigliate addosso, perché poi la prima cosa che è volata sono state queste bottiglie stracolme di peroni che loro avevano raccolto dalla campana per la differenziata del vetro mentre aspettavano che arrivassero i ragazzi che uscivano dalla scuola. E quindi insomma è successo, la cosa è andata così, nel momento in cui appunto siamo avvicinati alla metropolitana, questi sono scattati, stavano aspettando là e insomma è successo poi quello che è successo. I ragazzi che sono andati, diciamo, peggio nella cosa, chiaramente gli aggrediti poi si sono fatti comunque uno una nottata in ospedale, hanno diversi ovviamente punti di sutura, in particolare poi in faccia e in testa, perché sono andati là a colpire con i martelli e con le cose, anche perché i ragazzi ovviamente tornando da scuola e andando a portare solidarietà, che invece avessero, come poi infatti si è visto, se dalle immagini, dalle cose si vede, non avevano ovviamente niente, che non era come invece poi hanno sostenuto appunto, vabbè, nella follia totale, nell'illogicità più totale, i vari comunicati di blocco studentesco Casa Pound hanno sostenuto che c'era stata un'aggressione al contrario, cioè che i ragazzi del Vittorini, collettivi antifascisti, erano andati là ad aspettare esattamente il rovescio della cosa, perché insomma dalle testimonianze, da quello che hanno visto le persone del posto che erano presenti, ma chiaramente dalle armi che avevano in mano questi qua, si vede che che la cosa è andata esattamente al contrario. Per cui quello che è successo subito dopo è che chiaramente, diciamo, a quel punto si è convocata subito un'assemblea cittadina sulla cosa, a partire dai ragazzi proprio della scuola, che sono stati i primi diretti interessati, che c'è stata di pomeriggio, venerdì pomeriggio all'ex OPG, che è stata molto molto partecipata e serviva soprattutto, diciamo, innanzitutto a dare dare la verità su quella storia là, perché già, diciamo, c'era stato il tentativo di ridurre il tutto, soprattutto da parte di Casa Pound e Blocco, a una questione, diciamo, di guerra un pochino tra bande, no? Di una questione relativa a due gruppi che alla fine tutto sommato non si capisce nemmeno perché si trovano sempre in queste condizioni qua. Per cui è stata la prima cosa che noi abbiamo ritenuto insieme ai ragazzi della scuola fondamentale, è stata quella di fermarci un attimo, di prenderci un attimo il tempo appunto di convocare un momento che fosse pubblico, che fosse collettivo e che però avesse innanzitutto, diciamo, la missione di dire: ok, le cose sono andate così e in base a questo appunto organizziamoci per dare una risposta che sia nei prossimi giorni forte, che sia immediata e soprattutto che porti una solidarietà che sia larga, che sia reale ai ragazzi aggrediti, ma anche ai ragazzi della scuola che semplicemente continueranno a fare il collettivo, ma non devono appunto, devono continuare a farlo nella tranquillità, nel migliore dei modi possibile, non possono pensare che una cosa del genere si ripeta. Quindi la mattina dopo, poi il sabato, c'è stato il presidio con un grosso volantinaggio proprio fuori la scuola, che poi ovviamente, diciamo, visto che la partecipazione è stata grossa, si è trasformato effettivamente in un corteo per il quartiere in cui è successo poi in cui è accaduta l'aggressione, quindi con un grosso volantinaggio, con un grosso interesse da parte delle persone che abitano lì, che si sono trovati la scena sotto gli occhi, quindi tra l'altro loro sono quello che è successo durante l'aggressione e che appunto, essendo immediata la differenza tra gli aggressori e gli aggrediti in quel caso, chiaramente le persone del quartiere poi sono intervenute perché insomma li hanno insultati, li hanno riconosciuti come questi sono i fascisti, anche se insomma non hanno un'attività costante su quel territorio, ma sono stati immediatamente, diciamo, riconosciuti, immediatamente in qualche maniera le persone hanno fatto capire che quella non era area, che non erano ben visti, che non erano voluti, eccetera, eccetera. Quindi questa è stata un'altra cosa per noi assolutamente fondamentale. E rispetto poi alle cose che si sono, proprio al tipo di risposta che si è scelto di dare, è importante, vabbè, sottolineare che io non so appunto se si riesce a percepire, magari non, ma i ragazzi hanno avuto una solidarietà veramente impressionante e che tra l'altro ha travalicato, per fortuna direi, i giri, no, magari stretti dei compagni, dei collettivi. C'è stato invece, si è riconosciuto il fatto che al di là, diciamo, della gravità specifica poi dell'episodio, perché appunto non sto che a ripetere perché è evidente in sé, però appunto si è riconosciuto che un'aggressione di matrice nazifascista in questo tipo di con questo tipo di modalità, ovviamente non è una questione che si può relegare all'interesse del singolo militante antifascista, del singolo collettivo, del singolo centro sociale, ma chiaramente è una questione politica che investe tutta la città. E quindi è su questo livello poi, no, anche di, diciamo, di piano pubblico che deve viaggiare la cosa, si deve porre il problema dei gruppi, cioè, dei gruppi neofascisti, si deve porre il problema di che tipo di coperture hanno questi personaggi, che poi al di là, diciamo, delle aggressioni di strada, della faccia, no, più brutale, più anche facile tra virgolette da isolare, perché voglio dire è evidente quanto, diciamo, è meschina. Però al di là di questo poi ci sono tutta una serie di rapporti, di legittimazioni politiche forti che hanno questi personaggi, ce li hanno a livello nazionale con il fronte leghista di Salvini, ce li hanno a livello locale con il centrodestra, tant'è vero che poi noi questo l'abbiamo risottolineato perché, insomma, la memoria, diciamo, è sempre troppo corta. 5 anni fa successe un episodio simile, ci fu un'aggressione molto grave a un compagno dei collettivi, sempre ad opera di, appunto, personaggi di Casa Pound. Gli stessi personaggi 5 anni fa erano candidati nelle liste elettorali di Lettieri con il centrodestra, dopo nemmeno un mese, 2 mesi dall'aggressione, e sono gli stessi personaggi che, insomma, poi dopo 2 anni sono stati coinvolti da un'inchiesta grossa della magistratura, che è andata effettivamente a provare il fatto che cose che, insomma, i collettivi denunciavano pubblicamente da anni, che appunto questi erano degli assassini, avevano tentato di ammazzare una serie di compagni e avevano tutta una serie di, diciamo, di rapporti forti con, appunto, personaggi che invece tendenzialmente, no, quando li si guarda, un occhio esterno li guarda, alla fine tutto sommato si dice: ah, Lettieri non è il meglio che vorrei, però, insomma, invece no. Il tentativo che si deve fare, secondo noi, è proprio questo qua, quindi in qualche maniera andare a sottolineare l'urgenza di togliere qualsiasi spazio, sì, di legittimazione. Infatti, guarda, quello che tu è del 30 gennaio, quindi di pochi giorni fa, anzi, quasi in concomitanza con l'aggressione, il documento del Ministero fatto uscire dall'Osservatorio di Repressione, fatto uscire da tanta gente proprio su Casa Pound, un'organizzazione di bravi ragazzi molto disciplinati, con uno stile di militanza fattivo e dinamico, ma rigoroso nel rispetto delle gerarchie interne, sospinti dal dichiarato obiettivo di sostenere una rivalutazione degli aspetti innovativi e di promozione sociale del ventennio, quando è lo Stato a porsi in questi termini nei confronti di Casa Pound, ecco. Il problema è evidente qua, l'antifascismo, come anche del resto l'antirazzismo e tutta una serie di valori di cui anche una sinistra poco sinistra, diciamo, si riempie la bocca, poi si vanno a vedere nella reale opposizione a quelli che sono blocchi di potere, nel senso che poi vediamo, appunto, che sia legale o illegale non ci interessa, perché poi tanti sono anche i territori in cui i fascisti sono alleati di mafie, camorre varie ed eventuali, comunque sono il braccio armato di un potere che ci vuole oppressi, che sia, appunto, quello dei candidati sindaci, degli intrallazzi, che sia quello degli assessori, de sto cavolo, oppure appunto invece di illegalità varie ed eventuali, di impicci di altro genere. Quindi nel momento in cui lo Stato si esprime in questi termini su Casa Pound, vediamo effettivamente poi, oltre alle 1000 volte in cui li abbiamo visti protetti dalla polizia, che appunto non è un organo autonomo, ma risponde a qualcuno, è l'ennesima prova del fatto che poi l'antifascismo di fatto altro non è che, appunto, non è un valore d'anime belle, ma la diretta e concreta lotta contro chi di fatto poi si arroga un potere del tutto illegittimo e che vuole usare contro di noi. Quindi sicuramente appunto segnaliamo da questi microfoni, non lo mandiamo perché purtroppo l'audio è un po' disturbato, quindi rischia di creare un po' di problemi in radio, però è molto interessante e molto carino il video dell'ex OPG occupato, io so pazzo, delle interviste fatte a dei ragazzi nel corteo di cui tu parlavi, appunto che restituisce in maniera visiva e quindi molto immediata la composizione che tu raccontavi, la partecipazione molto ampia, e soprattutto restituisce quello che è la reale opinione, diciamo, di o meglio, non la reale, l'opinione di coloro che queste cose le vivono sulla pelle e non se le vedono scritte diciamo dall'alto di un editoriale o di un articolo di giornale o di un salotto qualunque, perché poi nel momento in cui ci si ritrova appunto i propri compagni di classe piuttosto che i propri amici aggrediti con bastoni tricolore vari ed eventuali, ecco, il discorso della guerra fra bande è una roba buona solo per la retorica da giornale, chi ha gli occhi per guardare vede un'aggressione fascista, niente più niente meno. Senti, ti volevo chiedere un po', appunto, il Vittorini, come dicevi tu, non si sono lasciati intimidire, hanno gestito molto bene, mi sembra, appunto, questa questione, mettendo al centro la collettività, mettendo al centro il fatto che sia una questione di tutti e non del singolo, come tu dicevi. Ma i ragazzi appunto hanno dei prossimi appuntamenti, hanno rilanciato o hanno detto giustamente anche... hanno sicuramente abbassare l'attenzione sulla cosa, anzi. In realtà poi, vabbè, chiaramente dopo il momento, la prima risposta che hanno avuto modo di dare, ovviamente loro in questi primi due giorni della settimana in cui sono tornati a scuola stanno avendo una serie di momenti collettivi, pensavano di innanzitutto, vabbè, di continuare un lavoro interno alla scuola, perché poi chiaramente, diciamo, chi non è direttamente interessato alla vicenda, no, magari può sentire la voce di l'editoriale di Repubblica piuttosto che, diciamo, del professore che non è particolarmente onesto, per cui non gli va a raccontare quello che è successo veramente. Quindi loro pensavano dalla parte, diciamo, di approfondire quel versante là interno alla scuola, chiaramente con una serie di assemblee straordinarie, di iniziative, insomma, che andassero a focalizzarsi proprio sulla questione del neofascismo. E poi chiaramente, diciamo, stanno capendo insieme ai ragazzi delle altre scuole, degli altri collettivi, il tipo di risposta che è più opportuno continuare a dare. Quindi chiaramente si tratta di, sicuramente, diciamo, da parte nostra, da parte, diciamo, dell'ex OPG, io ti posso dire che sicuramente, diciamo, non molleremo un minuto su questa questione, perché appunto l'idea è proprio quella di portare una campagna cittadina che effettivamente metta al bando certe questioni, certi tipi di organizzazioni, certi personaggi. Poi l'articolazione concreta ovviamente si andrà a vedere nei prossimi 20 giorni proprio al massimo, però insomma l'idea è quella di lavorare perché effettivamente in città si parli di questa cosa, se ne parli tutti e soprattutto se ne parli in una maniera che isoli completamente, che quindi rende impossibile svolgere qualsiasi tipo di operazione politica, che fosse, diciamo, a fini elettoralistici o meno, a questo tipo di costellazioni, diciamo, di neofascisti. Anche perché poi, diciamo, loro no, hanno il rapporto che dicevi del ministero, questa tecnica sopraffina di prima sprangare le persone e poi no, preoccuparsi di una serie di attività che loro chiamano sociali per gli italiani, eccetera eccetera. In certi posti a Napoli non hanno, diciamo, alcun radicamento, questo, diciamo, deve essere chiaro pure agli altri, perché non sono pochi, sono, diciamo, isolati dal resto delle persone, ovviamente non contano nella popolazione reale, granché, contano a livello appunto di intrallacci, eccetera eccetera, però l'idea è proprio questa, cioè di andare a sollevare un problema politico cittadino e di fare il possibile perché effettivamente da questo tipo di vicenda, che poteva avere degli esiti assolutamente realmente gravi anche da un punto di vista proprio della salute dei compagni, però poi si faccia un passo avanti rispetto appunto alla, alla messa al bando di questo tipo di organizzazioni, ma nella pratica concreta, cioè nel fatto che di togliergli qualsiasi tipo di agibilità politica, forse pure fare il banchetto la mattina, devo pensare che è meglio non farlo, diciamo, tendenzialmente. Quindi questo è, sicuramente ci si lavorerà ancora sopra, sicuramente diciamo da qui a, a brevissimo, poi insomma sono tutte cose che appunto sono, sono in costruzione, però che sono in costruzione adesso, quindi non, non parliamo chiaramente di tempi lunghi, soprattutto non parliamo, anche perché poi la strategia diciamo inversa, quella appunto di Casa Pound, blocco studentesco, eccetera eccetera, è stata una strategia diciamo singolare nella misura in cui ha provato diciamo a rovesciare la versione dei fatti, la verità, dicendo cioè, una serie di boiate poi, perché insomma erano veramente poco credibili, ma soprattutto ora è quella di insabbiare completamente l'accaduto facendo finta che non riguardi nessuno. Ovviamente noi faremo esattamente l'opposto, perché è importante che sappia quello che è successo, ed è importante che lo si sappia in quante più persone possibili, che non riguarda semplicemente noi che siamo stati aggrediti, anche perché voglio dire, noi purtroppo la terza, quest'anno poi è la terza volta che ci troviamo diciamo in una situazione del genere all'ex PG, però quello che ci è stato sottolineato anche da tanti messaggi di solidarietà di persone che si sono immediatamente attivate, no? Anche nel, nel loro piccolo, nel fondo militante, eccetera, eccetera, è appunto che ovviamente l'aggressione fisica non si limita a quello, ma è un attacco poi a, in qualche maniera, no, a un modo di fare politica, a un progetto di riqualificazione che non è solo chiaramente territoriale, di un posto abbandonato in cui adesso si svolgono 30-40 attività quotidiane, eccetera, eccetera, ma che chiaramente è una maniera diversa di vedere, di agire, di trasformare poi gli spazi in cui le persone normalmente danzano, vivono, attraversano. Quindi questo ci fa piacere che l'abbiano sottolineato anche diciamo persone che, ripeto, non siamo strettamente noi, però è evidente appunto che bisogna contrapporre due modelli, no? Bisogna dire guardate, queste, questi sono quelli che appunto fanno inciuci, sono legati a blocchi di potere, sono quelli che escono con i martelli per sprangare gli studenti, noi siamo quelli che portano avanti un modo di vivere, di stare insieme, di progettare il presente e il futuro che è diverso, che non è basato su quella sopraffazione, su quella violenza e insomma sulla stupidezza che sappiamo accompagna le prodi azioni, diciamo, sì, sulla vigliaccheria, esatto, l'eroismo diciamo che li contraddistingue. Va bene, Rosa, grazie mille, sei stata esaustiva sia sul discorso, su appunto nel fare chiarezza un po' su cosa è successo, non che sia mancata la capacità di comunicare da parte di questi ragazzi, da parte dei compagni che li hanno sostenuti. Noi ti ringraziamo, ti lasciamo andare e hai eventualmente per qualunque cosa ci riaggiorniamo. E invece ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici ricordiamo che dall'1 al 7 febbraio è cominciata ieri la settimana antifascista nel quartiere di Lucento e Vallette, proprio un po' a proposito dei discorsi fatti finora del fatto di restringere qualunque possibilità di spazio d'agibilità politica per quelli che di fatto appunto altro non sono che dei vigliacchi infami. Bene, il 3 febbraio ci sarà la presentazione del libro Fenomenologia di un martirio, di Montini, appunto nell'ambito di questa settimana che è ricca di iniziative, andrà a culminare con il corteo di domenica 7 febbraio, presidio corteo antifascista per le vie del quartiere, ritrovo in corso Cincinnato, angolo via Val della Torre, nella piazza del mercato, ma ricorderemo poi questi appuntamenti in chiusura di puntata. Rosa, ai compagni di Napoli, ai ragazzi della, del Vittorini, tutta la nostra solidarietà e tutto il nostro sostegno. E se toccano uno, toccano tutti del resto. Quindi continuiamo, diciamo appunto, cioè, a sostenervi come possiamo da qui, e vi facciamo coraggio e soprattutto appunto continueremo a sostenervi nel miglior modo possibile, che è praticare antifascismo sul nostro territorio. Grazie, grazie mille. Grazie a voi. E allora appunto grazie a Rosa che ci ha raccontato un po' i fatti di questi ultimi giorni. Rinnoviamo l'invito ad andare a vedere un po' i video, ciò che i materiali che hanno prodotto i ragazzi e i compagni a Napoli, perché appunto sono molto sono interessanti e restituiscono l'ampiezza della risposta data a questa vile aggressione. Dicen que el mundo ya no va a cambiar, que no insistamos. Resignación nos pide el latinoamericano. Dicen que fuimos derrotados, perdimos una guerra. Y ahora hay que resignarse a vivir en esta mierda. Que somos tratados, programados como ganado. No todo puede medirse por las leyes del mercado, porque tus cálculos. El grupo tuvo una primer formación que era con banda acústica. Y bueno, por ahí lo más destacable es que yo particularmente empecé el grupo simultáneamente con una militancia en la agrupación Hijos, es una agrupación de derechos humanos que nuclea hijos de desaparecidos, exiliados, asesinados durante la última dictadura militar. Y bueno, para mí siempre el grupo fue como otra vía también, o otra herramienta de militancia, de lucha, de transformación. Bueno, a medida que fue pasando el tiempo, me fui inclinando mucho más por hacerlo a través de la música, porque, bueno, primero porque se dio, segundo porque me parece que la música, en este caso el hip hop, es una herramienta de transformación tal vez mucho más efectiva que muchas otras militancias políticas en términos de política partidaria, por ejemplo. Ricordiamo ora la settimana di iniziative già cominciata sabato 30 gennaio con la colazione popolare al mercato di Corso Cincinnato. Lunedì 1 febbraio c'è stata la proiezione di Fascist Legacy, un documentario prodotto dalla BBC sui crimini di guerra italiani. Domani, mercoledì 3 febbraio, le foibe tra storia e media presentazione. Le foibe tra storia e media, presentazione del libro Fenomenologia di un martirologio mediatico. Giovedì 4 febbraio, ore 21, proiezione di Fascisti su Marte. Venerdì 5 febbraio, ore 16, merenda e concerto con gli artisti del quartiere. Venerdì 5 febbraio, ore 21, incontro con lo storico Sandy Volk da Trieste. Sabato 6 febbraio, ore 9, colazione popolare al mercato di Corso Cincinnato, e chiuderemo domenica 7 febbraio alle ore 15 con il presidio dell'AMPI per la pace. Domenica 7 febbraio invece alle ore 17, presidio corteo antifascista per le vie del quartiere. Ricordiamo questa settimana di iniziative e invitiamo alla partecipazione. Schegge come lacrime di vetro, sono metro della credine di fronte ad una forbice invisibile. Separo ogni mio simile che osserva da chi attraversa quella soglia. In quel negozio compra ciò che voglia, sfoglia le pagine del libro dell'inuguaglianza e cogli la sostanza. La mia scelta di coerenza sta nei sogni dei banditi, nel dileggio dei divieti, nell'odio viscerale per vigliacchi e mansueti. Sono un ladro e lo confesso, e con questo io senza legge rubo il nome di me stesso. Altri più scaltri di professione si spartiscono poltrone mai nel proprio nome, mentre la giustizia muore dentro una prigione. Mentre a scegliere per me c'è la banda di un massone, ognuno da sé tragga la sua conclusione. Io pratico il saccheggio, io danneggio il carrozzone. Nero come il colore della mia bandiera, nero vestillo per la gente che si schiera. Come? Come? Come in mezzo al vento. Nero come il blocco che

11:59 su 105.250. Continua la mattinata in compagnia di Parole Ribelli ancora per quasi un'oretta per poi lasciare spazio all'info e al resto della programmazione di Blackout, che vi tiene compagnia per tutto il giorno. E allora andiamo a parlare un po', appunto, di sempre di ciò che si muove sul nostro territorio. Abbiamo ricordato e lo riricordiamo perché riteniamo sia importantissimo la settimana antifascista di mobilitazione nella, diciamo, nella Torino nord-occidentale dall'1 al 7 febbraio. Importantissimi tutti i momenti di questa settimana. Andate su Facebook Lucento Valletta Antifasciste per tenervi aggiornati. E andiamo avanti, appunto, dicevamo, un altro appuntamento sicuramente importantissimo, non tanto perché per la sua rappresentazione quanto per la sua spontaneità. Il corteo di giovedì del Giulio Cesare, un liceo che, anzi un istituto, perché diciamo che c'è una differenza anche di attenzione nella gestione tra licei e istituti, che ha una caldaia su tre per due scuole, diciamo la succursale del Giulio Cesare ha una situazione edilizia disastrosa. Non solo non vi sono le condizioni di sicurezza, ma quelle mancano nel 90% delle scuole, ma sostanzialmente non hanno riscaldamento, cacche di topi in giro, insomma, ci hanno raccontato, o meglio hanno denunciato, perché non siamo ancora riusciti a metterci in contatto noi di Parole Ribelli direttamente con loro. Sappiamo, abbiamo parlato con altri studenti che invece sono in contatto e appunto ci hanno raccontato delle cose veramente che sono assolutamente inaccettabili. E infatti i ragazzi hanno deciso di non accettarle. E allora adesso ci mettiamo in contatto con uno studente del Passoni. Lasciamo spazio a un altro pochino di musica e chiamiamo. Like you take a risk, the mic take your life, and it's like now I feel so selfish for the drug abuse and all the death wishes. Didn't even get to spend the day with you on Christmas. But hey, that's life, and people get separated not intentionally, but my family's torn apart and I hate it. Life is so sacred, love me like the sky loves the stars. You can make it. Take this world, you can hold it in your palms. Can't be with you every day, so I'ma sing it in a song. I love you, and I wish that I could take your pain away. I think about you every night, I think about you every day, and I don't call 'cause it hurts. And that's how I deal with problems, act like they don't exist, and the universe will solve them. And that's why I understand exactly what you're going through. I know you cut hella deep, but to sleep with the truth that are hard to accept only make it that stronger. Living in denial ain't an option any longer. Life is so amazing, hoping one day you can see it. Yo, I used to have your same mind state, and now I'm heated that the world is so cold that it turns our hearts to ice. And I know I'm not the best at giving out advice, but I gotta let you know how I'm feeling, 'cause I care. And if you left before me, the pain I couldn't bear. 'Cause you, one of the people I love most on this planet. And you, one of the people that have been taken for granted. It's saddened, I'm sorry, this was a wake-up call. Not only for yourself, but for the rest of us all. And I ain't gonna lie, I'm scared, you got me worried. Life passes so fast while we living in a hurry for vision that's blurry and temporary numbness. It's no wonder we can't grasp reality. It's fun when the problems go away and the depression's deterred. But then you coming down feeling what's the word? Worthless. Like you're on the earth with no purpose. Like you really don't deserve this. Hold up, let me reword this. Yo, when I'm sober and it's over and I'm old. God damn it, I feel like dying, but under no with the cold breath and the cold sweats. Sometimes I still feel like dying. Gotta live life to find your purpose. You gotta work hard, and when it comes, you gon' be like, I deserve this. Keep your head high, this too shall pass. And in the morning when you get up in the school and class, learn everything you can and utilize the knowledge. So fucking proud of you that you going to college. You deserve the best, so work and you'll receive it. Anything imaginable is possible, believe it. So keep your head up, cause nobody's gonna do it for you. Your family, we love you, accept you, adore you. Always in my thoughts, in my heart, on my mind. Promise everything's gonna get better, you just gotta give it time. Ora siamo in diretta con Stefano, uno studente del Passoni. Purtroppo per questioni logistiche non siamo riusciti a entrare in contatto direttamente con gli studenti del Giulio, ma dato che la questione dell'edilizia scolastica riguarda un po' tutte le scuole, Stefano, ci senti? Eccomi, eccomi. Ciao, ti chiediamo un po' di raccontarci la condizione del Giulio, delle scuole in generale qui a Torino, ma... anche altrove la situazione non è meglio, è del corteo che si terrà venerdì per appunto che si chiama Le scuole cadono a pezzi, proprio per richiamare insomma la condizione delle strutture scolastiche. Eccomi, sì, proprio come dicevi tu, come hai anticipato, sappiamo benissimo che l'edilizia scolastica in tutta Italia è un problema che gli studenti sentono e che vivono tutti i giorni. All'interno delle scuole si vive in posti non sicuri, quindi dove le norme di sicurezza non vengono rispettate, dove addirittura ci sono proprio dei disagi strutturali, quindi spesso ci troviamo a sentire notizie di scuole con crolli di magari intonaco, contro soffittatura, che sappiamo bene che se cadono in testa qualcuno poi ci scappa anche il morto, come è successo anni fa qua vicino a Torino, ecco. Appunto, come anticipavi tu prima, il venerdì 5, quindi questo venerdì qua, ci sarà un corteo che insomma è stato un po' indetto, e l'iniziativa è stata presa dai ragazzi del Giulio, un istituto qui di Torino, che appunto dopo mesi che si trovavano a disagio a scuola, in cui porte dei bagni non si chiudono, piastrelle che mancano nelle aule, ma soprattutto il freddo, perché soprattutto in questi mesi invernali, non avendo riscaldamento, ci troviamo a stare in aule con temperature sotto zero, e non credo che in un ambiente scolastico in cui ci passiamo la metà delle nostre giornate uno possa vivere al freddo e stare durante lezioni con giacca e sciarpe e cappelli. Poi ovviamente le risposte che ci vengono date, come al solito, da preside e istituzioni sono sempre le stesse: non ci sono soldi, le sistemeremo poi, adesso questo non è il problema principale, quindi si tende sempre a trascurare questi problemi, anche se poi noi siamo sempre le solite vittime. Quindi appunto, come dicevo, i ragazzi del Giulio hanno voluto indire questo corteo di venerdì 5, che partirà da piazza 18 dicembre, una piazza centrale di Torino, e appunto si snoderà per le vie del centro, andando a un po' a individuare qual è la controparte, quali sono le istituzioni che appunto si occupano di edilizia scolastica, che sono responsabili di questi crolli, del mancamento delle norme di sicurezza, ma soprattutto anche del fatto che non ci sia riscaldamento nelle scuole. Noi appunto questo corteo dovrà andare a chiedere spiegazioni a chi è responsabile appunto di tutto ciò. Lo volevo ricordare che anche due settimane fa, stessa situazione che si è verificata al Colombatto, al Giulio, due settimane fa è successo al Colombatto, un istituto alberghiero. Questi ragazzi si trovano a temperatura addirittura appunto, come dicevo, sotto zero, -2, -3 tutti i giorni, e addirittura c'erano problemi di escrementi di animali all'interno della scuola. Questo fa sì che in un istituto in cui vengono utilizzate le cuspine, non si neanche le norme di igiene non vengono neanche rispettate, oltre che quelle di sicurezza, quindi una serie di problematiche che non vanno trascurate. Noi crediamo che, io sono uno studente del Passoni, noi quest'autunno abbiamo occupato anche per i problemi di edilizia, noi abbiamo un sacco di problemi appunto per quanto riguarda la sicurezza delle scuole. Quindi appunto c'è anche da chiedersi, ma questa è la buona scuola che di cui tanto ci parlano? Perché se vediamo istituzioni, presidi che sono impegnati a occuparsi di stage, di alternanza scuola-lavoro e tutte di contributo volontario, ma poi le cose più imminenti non vengono neanche ascoltate e non vengono neanche prese in considerazione. Quindi la domanda, che potrebbe essere anche uno slogan, ma è davvero questa la buona scuola, la buona scuola di cui ci parlano? Quindi questi sono un po' i motivi per cui saremo in piazza venerdì. Ecco, quindi estendo l'invito ovviamente a tutti, sarà un corteo studentesco che appunto andrà a evidenziare queste problematiche. Ok, grazie Stefano. Il tuo racconto e il tuo invito alla partecipazione sono stati più che soddisfacenti. Chiaramente quando i fondi mancano, alla fine la scuola fa buchi da tutte le parti, sia per quanto riguarda le strutture, sia per quanto riguarda l'istruzione e così via. Quindi invitiamo tutti quanti alla partecipazione al corteo di venerdì. Ci risentiamo. Grazie, ciao. Ciao Stefano. Che è l'amor no ma, però. Digamos que vamos a la que vende un marismo, no de amor. Acá de vez en cuando quiero viajar, acompañarte a los sueños. Mi anzuelo en tus almohadas celestiales, tantos males en el mundo. Hace falta el fuego interno. Nos olvidamos de la diosa y del trueno en el pecho. Y cuando yo te siento adentro, me elevo y el tiempo transcurre lento. Me conecto desde mis ancestros al instinto que me dice que nuestro momento estaba escrito en las estrellas. Viajamos juntas a ellas. Siento como tocas heridas suavemente. La mente no lamenta que te tomes la molestia de pedir permiso para entrar en mi templo. Te regalo toda el agua que me nace desde el centro. Si el corazón quiere cantar, ¿qué puedo hacer? Ayudar a que fluya en el viento que sale por mi boca y se convierte en movimiento, sonido que vibra y siento. Si el corazón quiere cantar, ¿qué puedo hacer? Ayudar a que fluya en el viento que sale por mi boca y se convierte en movimiento, sonido que vibra y siento. Ahora debo inventar un lenguaje nuevo para poner en palabras todo lo que siento. Y aunque lo intento, las que existen ni siquiera se acercan a este sentimiento. Te quiero cerca, pero no te quiero poner cerco. Quiero la libertad de amar sin sufrimiento, sin etiquetas, inventarnos algo nuevo, no acomodarnos a seguir algún libreto. Por eso te comparto este corazón nómada. ¿Qué más da? La distancia no apaga esta llamarada. Espero tu llamada. Me gusta cuando hablas de lo que tanto amas. Guerrera, derrumbemos las fronteras, hagamos la primavera. Pon tus dedos en mi tierra, que no nos gane la guerra. Que la sangre que nos nace fertilice, floreciera. Si el silencio, el amor que la renueva. ¿Qué puedo hacer? Ayudar a que fluya en el viento que sale por mi boca y se convierte en movimiento, sonido que vibra y siento. Si el corazón quiere cantar, ¿qué puedo hacer? Ayudar a que fluya en el viento que sale por mi boca y se convierte en movimiento, sonido que vibra y siento. Carrera, derrumbemos las fronteras, hagamos la primavera, pon tus dedos en mi tierra, que no nos gane la guerra, que la sangre que nos nace fertilice flores fieras y el silencio, el amor que la renueva. 12 e 14 sulle libere frequenze di Radio Blackout, ci chiedono di chi era la canzone è dal nuovo album di Rebecca Lane, Corazon Nomada. E andiamo avanti con un po' di musica, perché tra poco ci mettiamo in contatto con la Tunisia, con Gabriele Proglio, che ci racconta un po' dell'appello lanciato negli scorsi giorni da una centinaia di accademici italiani, che non ha, appunto, come ogni volta che si va toccando Israele, non ha lasciato assolutamente indifferente, diciamo, la nutritissima comunità sionista, che, per carità, nessuno è mai sionista, ma chiunque attacchi Israele è sempre antisemita. Questo strano giochetto viene fatto continuamente, appunto, Gabriele ci racconterà un po' meglio che cosa sta accadendo. Soul, cause hip-hop is old. She don't want no rock and roll. She want platinum or ice and gold. She want a whole lot of sun to fold. If you are obstacles, you just drive your cold. Cause one no, you don't stop the show. Little Mary's bad. In these streets she done ran ever since when the heat began. I told a girl, look here, calm down, I'ma hold your hand to enable you to beat the plan. Cause you was quick to learn, and we can make money to burn. If you allow me to lay this game, I don't ask for much, but enough room to spill my way. And the world finna know my name. I don't ask for much these days, and I don't bitch and whine if I don't get my way. I only wanna burn alive and load up behind my lover's back. I sit and watch at the rooster and where I'm at. Burn alive and load up behind my lover's back, and I'm keeping my secrets. And I don't scream and kick. was meant to rock and roll. Yeah, I was meant to rock and roll. E allora 12:20 su 105.250. Ricordiamo i contatti per scriverci al 346-66-73-263, allo 011-2495-669 invece per chiamarci. E allora, come dicevamo, siamo in collegamento con Gabriele Proglio. Gabriele, ci senti? Sì, ti sento. Ciao a tutti e a tutti. Ciao, allora noi abbiamo, innanzitutto grazie per questo collegamento, noi abbiamo introdotto un po' il tema in realtà a partire da, diciamo, da questa richiesta di boicottaggio delle istituzioni israeliane da parte di 168 accademici italiani, l'abbiamo inserito un po' in una cornice più ampia di presa di posizione delle accademie, che diciamo sta un qualcosa che sta tornando abbastanza, diciamo, sta tornando a essere una pratica, cosa che avevamo visto non più, cioè che non era tanto, diciamo, non veniva spesso fatta, soprattutto ciao a tutti e a tutti. Soprattutto nei termini di a favore, diciamo, degli oppressi, nel senso che ricordiamo perfettamente tanti professori e professoresse lanciarsi in analisi superficiali dalle pagine di giornali, però appunto invece una presa di posizione da parte dell'Accademia in altri termini era un po' che non si vedeva. Allora invece con, diciamo, in quanto universitari, con piacere parliamo di questo appello. Io ti lascio la parola, diciamo, perché è interessante anche appunto che ne parlino i protagonisti, visto che è un'iniziativa senza precedenti in questo paese. Sì, ti sento. Ciao a tutti e a tutti. Gabriele, appunto, se hai voglia di ci dici un po' come ha cominciato a girare questo appello, come mai si è arrivati in questo momento a prendere questa scegliere questa presa di posizione molto forte. Pronto? Pronto? Va bene, Gabriele, sembrerebbe, ecco, caduta la linea, quindi noi vi mettiamo, diciamo, un attimo insieme a vi lasciamo sempre insieme a Rebecca Lane e Contra, e cerchiamo di rimetterci in collegamento con Gabriele. Sì, ti sento. Ciao a tutti e a tutti. Sembrerebbe che la chiamata sia andata in loop sul suo saluto, cioè a riciao, e ora attacchiamo e proviamo a ricollegarci. Okay. That snake could be that chicken, could be that cool cat. That's whispering, she's trying to play you for the fool black. If something's on your chest, then let it be known. See, I'm not your every 5 minutes all on the phone. And on the topic of trust, it's just a matter of fact that people write back. And fracture was intact, and they'll forever be. I ain't on some Obama celebrity, I deal with the real. So if it's artificial, let it be. I seen people caught in love like whirlwinds, listening to these squads and listening to girlfriends. That's exactly the point where the whole world ends. Lies come in, that's where the drama begins. She like, yeah. If you were worried about where I've been or who I saw, what club I went to with my homies, baby, don't worry, you know that you got me. If you were worried about where I've been or who I saw, what club I went to with my homies, baby, don't worry, you know that you got me. If you were worried about where I've been or who I saw, what club I went to with my homies, baby, don't worry, you know that you got me. E allora riproviamo a collegarci con Gabriele. Gabriele, ci senti? Sì, mi sento, eccomi. Ok, perfetto. E appunto io a questo punto ho introdotto in solitudine perché era caduta la linea, però e quindi diciamo ti lascio la parola direttamente. Appunto la domanda era un po' come mai, qual è anche un po' la genesi di questo appello, perché questa è un'iniziativa senza precedenti in Italia. Abbiamo visto, anzi di solito purtroppo la voce del mondo culturale, tra tantissime virgolette, italiano è stata affidata a figure di veramente dubbio gusto, tipo Saviano, quindi invece questa presa di posizione non solo è importantissima, diciamo, in generale, ma anche rispetto alla vita in università, segna appunto l'apertura di anche spazi di discussione più ampi per noi che la viviamo da dentro. Gabriele, niente, ragazzi, qua la diretta in Tunisia non è che sta tanto funzionando. Gabriele, ci senti? Pronto, pronto. Oh. Gabriele? Va bene, niente. Purtroppo non stiamo riuscendo a metterci in contatto. Facciamo un ultimissimo tentativo. Ti sento, eccomi. Ci senti? E questo strano fenomeno dell'andare in loop della telefonata, non capiamo se stiamo, Gabriele, stiamo parlando con te, con un fantasma tuo, con chi stiamo parlando? Stiamo parlando con qualcuno? È la vera domanda a questo punto. Vabbè, dai, facciamo, dicevamo, un ultimo tentativo, perché sarebbe interessantissimo sentire parlare da Gabriele e non da noi, quindi noi continuiamo a non demordere, vi lasciamo in compagnia. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, correr, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos, para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se ponga el imperio, lo gritamos tarde, no queda más remedio. Esto no es utopía, es salir de rebeldía, del baile de los que sobran, de la danza de mi amiga. Levantarnos para desollevar. Ni América Latina se suba. Un barro con casco, con lápiz, a patear el día. Provocar un social terremoto en escucharte. Vamos. blanco. Vuelve pa' tu pueblo, no te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos este sur y juntamos nuestras manos. Todos los callados. E allora 12:30, ultimo tentativo di collegamento con Gabriele, ci senti? Sì, vi sento. E vai. Ciao a tutti. Ce l'abbiamo fatta. Da paura. Senti, io ti lascio subito la parola perché qua ho intrattenuto i nostri ascoltatori e ascoltatrici anche abbastanza. E appunto, se ci racconti un po' l'occasione per cui si è presa parola con così tanta forza da parte dell'Accademia Italiana, cosa che è senza precedenti. Soprattutto poi, se hai voglia, se immagino ovviamente tu abbia letto subito la risposta di Fassino, la risposta di altri accademici, insomma, come dicevamo prima, nessuno è sionista a difendere Israele, però sono tutti antisemiti ogni volta che se ne parla. No, vabbè, dai, Gabriele, ci senti? Sì, ti sento. Ok. Ciao a tutti. Vai. Ciao. Funziona. Vai, la parola a te. Gabriele? Gabriele, sembra uno scherzo, ti prego, aiuto. Pronto, pronto? Va bene, direi basta perché a un certo punto, secondo me, ci sta arrivando anche un messaggio al 346-66-73-263, il bello delle dirette, veramente bellissimo. Comunque, che Gabriele c'è, ce l'ha detto quattro volte, cioè, dell'appello non ce n'ha parlato io neanche. Ci sento. Ah, ci sento. Ciao a tutti. Ah, funziona. Ah no, queste sono le cose di prima. Va bene, questo bellissimo fenomeno, vedete, veramente il sionismo non ha limiti, cioè incredibile, ci stanno sabotando la diretta. A sto punto ne parleremo noi, ormai la rave e la fava l'abbiamo detta abbastanza, nel senso che la cosa che a noi colpiva è un po' che finalmente si rompe questo muro, per cui parola ufficialmente la prendono sempre tutte, diciamo, istituzioni varie e personaggi culturali di dubbio gusto come Saviano a favore di Israele. Ecco, un appello compatto invece al contrario non si era mai vista. L'occasione è l'accordo di cooperazione siglato tra l'Università di Cagliari, Firenze, Perugia, Roma e Torino e i Politecnici di Torino e Milano con il Technion di Haifa, accusato di, cioè sostanzialmente è un istituto tecnologico che nell'appello, appunto, si dice chiaramente, supporta e riproduce le politiche israeliane di espropriazione e violenza militare ai danni della popolazione palestinese. Quindi l'appello, appunto, lo trovate su vari canali, Nena News, InfoOut, insomma tanti siti l'hanno rigirato, tanti profili di ricercatori e altri sono appunto si stanno facendo sostenitori, si stanno sostenendo questo appello. La cosa che ci interessa, appunto, ci interessa anche andare, ne abbiamo parlato spesso, del legame tra scienza e potere, nel senso che poi di fatto sfortunatamente laddove vengono dati soldi per la ricerca viene fatta messa a servizio di dei fini precisi, perché la ricerca non è mai fine a se stessa, ma produce degli avanzamenti tecnologici che in questo caso proprio il Technion è l'Israel Institute of Technology è un esempio abbastanza lampante di come poi di fatto tutto ciò che là dentro viene sviluppato, che cosa fa? Rende molto più sofisticate e anche più difficilmente scardinabili delle logiche di oppressione e soprattutto quella che è a tutti gli effetti l'occupazione da parte di diciamo Stato di Israele della terra palestinese, un'occupazione che purtroppo a volte viene scambiata per una guerra, ma che una guerra assolutamente non è. Sappiamo perfettamente che il Technion premia gli studenti che svolgono il servizio militare obbligatorio, che nello Stato di Israele è la regola. Nell'appello infatti si cita per esempio un esempio su il fatto che i militari riservisti che hanno partecipato all'operazione Piombo Fuso nel 2008-2009 sono stati anche concessi benefici sul piano accademico in aggiunta alle agevolazioni normalmente previste per i riservisti. Ecco, quindi sa tanto di tirocinio, no? Fa curriculum, ammazza più palestinesi possibile perché così ti diamo crediti all'università. Bene, grazie al cielo il moto d'orgoglio, anche un minimo di deontologia professionale da parte di da parte degli accademici italiani è scattato, quindi diciamo l'appello si chiude con appunto l'unirsi a questa di tutti e tutte a questa campagna di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni che appunto in solidarietà ai colleghi palestinesi da parte del da parte degli accademici aggiungiamo noi a tutto il popolo palestinese da parte nostra. E allora diciamo un popolo che tra i tanti a cui viene negato qualunque diritto di esistere. E allora proprio Gabriele, a cui avremmo chiesto conto anche di ciò, negli ultimi tempi, oltre a sottoscrivere questo appello, ha anche scritto questa lettera aperta riguardante diciamo un po' la disinformazione, o meglio una lettera aperta su un articolo di Quirico di questo giornalista della Stampa del 28 gennaio che scriveva: sulle montagne della Tunisia gli ex ragazzi della rivoluzione adesso sognano il califfato. Domenico Quirico raggiunge dei livelli di veramente bassezza unica dalle pagine della Stampa, ma è sempre in buona compagnia perché è invece dell'altro di inizio mese un altro articolo sempre della Stampa di Maurizio Molinari, corrispondente a Gerusalemme, che si chiama Da dove viene il branco di Colonia. Ora noi invitiamo tutti e tutte a condividere questi condividiamo sulla pagina di Parole Ribelli e sulla pagina del Collettivo Universitario Autonomo queste lettere di risposta che rimandano anche agli articoli incriminati, perché sicuramente appunto è interessante anche l'analisi che ricercatori, studiosi fanno della costruzione dell'alterità dell'alterità di questi soggetti e della semplificazione di determinati processi, che sono processi ovviamente come tutti quanti storici e storicizzabili, invece ecco vengono sensazionalizzati, si ricade tutto sul singolo evento, ricade tutto su ricade tutto appunto sulla notizia sensazionale, mentre invece giustamente si rivendica proprio laddove si fa ricerca, laddove si cerca di avere un'analisi accurata e di studiare i fenomeni del mondo, i processi di cambiamento, si rivendica appunto la complessità, si rivendica si condanna il semplicismo con cui vengono trattate determinate cose, perché è tutt'altro che ingenuo, viene detto a chiare lettere tanto nel discorso appunto degli accademici contro Israele, quanto nel discorso di che si nasconde dietro la libertà di espressione. Fassino subito ha risposto ai professori: assurdo boicottare l'accordo con Israele, Torino è una città tollerante e aperta. Allora, ne abbiamo parlato inizio di puntata, dietro la libertà di espressione e dietro questi piccoli feticci della, diciamo, delle democrazie liberali si nasconde poi la libertà di esistere di fascisti e apparati militari come quello israeliano che uccidono migliaia di persone costantemente. Allora, esattamente nello stesso modo si va appunto a condannare chi rimuove queste complicità, chi cerca di rimuovere un'interdipendenza che c'è tra i popoli. A questo proposito, interessante, avevamo letto dopo gli attacchi di Parigi, non per fare un minestrone ma perché il tema era quello, l'articolo di Judith Butler, rimandiamo anche al suo testo Vite precarie, perché sull'interdipendenza delle popolazioni, diciamo, fa uno studio molto accurato, e anzi sul lutto, la paura e l'alterità usati politicamente in maniera strumentale per creare nemici, appunto ha scritto vari saggi, tutti molto interessanti. Sono le 12:40, ultimi pezzi per Parole Ribelli, ultime battute, vi lasciamo poi agli appuntamenti e ci rivediamo la settimana prossima. Buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intiraipi. Allí ya chupa le ya chupa le ya chupa le ya casi quichis. Que yo pues con la capica ya tata gawa ya tata kuna piu ya rima ni kuna wey kuna pana ikuna. Kuna ka allí en taque guay la kuna chay muka kay Puerto Rico na chumanta pacha. Pa ikuna sutik mi calle 13. Y las patas vemos o taquita pomanchis. Chay taque sutik mi Latinoamérica. Uy ahí kusunchis. Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar. Río. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Allora, una traccia bellissima che dedichiamo a tutti i popoli in lotta, a tutti coloro che ogni giorno si riprendono la propria terra e la propria vita in mano. Parole Ribelli vi saluta e vi lascia in compagnia del resto della programmazione di Radio Blackout, ricordandovi un po' di appuntamenti. Allora, stasera all'asilo occupato, cena benefit per Jimmy, ricordiamo l'appello di questo compagno che diciamo invita tutti e tutte le solidali e i solidali a sostenere le spese funerarie della compagna che si è uccisa in carcere, e allora la sua famiglia deve sostenere appunto le spese di questo funerale, purtroppo, con soprattutto benefit appunto in solidarietà a coloro che sono stati condannati a 14 anni di carcere per gli scontri di Genova. E allora appunto ci uniamo in mandare tutta solidarietà stasera all'asilo occupato cena benefit. Ricordiamo, l'abbiamo detto fino alla nausea, questa è la settimana Antifa a Lucento e Vallette. Domani presentazione del libro sulla retorica delle foibe presso lo Spazio Isabella in via Verolengo 212. Continua sempre nell'ambito della settimana, il 4 febbraio Cineforum presso lo Spazio Il Muretto, via dei Gladioli, via dei Gladioli 140, si proietta Fascisti su Marte alle 20:45, sempre il 4. La libreria Comunardi in via Bogino 2 presenta il libro Sionismo, il vero nemico degli ebrei, di Alan Hart. Interviene il curatore Diego Siragusa. E andiamo avanti, continua la settimana, ore 16, merenda concerto con gli artisti del quartiere Aiuoli via Parenzo, angolo via Pirano, venerdì 5 febbraio, ore 21, di nuovo si torna allo Spazio Il Muretto in via dei Gladioli 21, che non è vero, 140, 21, incontro con Sandy Wall, una storica che ci parla della questione delle foibe. E si conclude domenica la settimana antifascista, mi raccomando, tutti e tutte a Vallette, il presidio e corteo alle 17, ritrovo nell'area mercatale, corso Cincinnato, corso Toscana. Parole Ribelli, come dicevamo, vi saluta, un saluto a tutti e tutte da Eddie e un saluto anche da Carla, e vi lasciamo in compagnia delle libere frequenze di Radio Blackout.